Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sugli spalti dello stadio Eden Park di Auckland, la folla applaude gli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby, mentre si accinge a fronteggiare la squadra avversaria con l'haka, la danza maori che è ormai diventata un rituale insostituibile. Un misto di folklore e spiritualità che i giocatori neozelandesi utilizzano come atto di forza per incutere timore nell'avversario. Una danza antichissima che identifica una nazione intera, la Nuova Zelanda, incastrata agli antipodi dell'Europa e che per la sua posizione geografica viene considerata terra di frontiera. Ma la Nuova Zelanda è terra prodiga di campioni e personalità famose che negli anni si sono distinte in varie discipline. Se a livello sportivo il rugby e la vela costituiscono due specialità nelle quali la Nuova Zelanda si pone ai primi posti, non si può dimenticare Sir Edmund Hillary, il primo uomo a salire sulla vetta dell'Everest, o attori di fama mondiale come Anna Paquin, Kerry Fox e Russell Crowe, che tutti ricordano per la sua interpretazione di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore. Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ma c'è un'altra persona di cui la Nuova Zelanda può legittimamente andare fiera. Un uomo il cui nome a molti non dice nulla, ma che ha dato un contributo fondamentale alla scienza aerospaziale degli ultimi 70 anni. Un uomo che ha cominciato a guardare il cielo da bambino, dai promontori che si affacciano sullo stretto di Cook, il tratto di mare che divide le due grandi isole che formano la Nuova Zelanda. I'm heading south to Wellington. Ci troviamo a Wellington, la capitale neozelandese. Siamo agli inizi del XX secolo e le navi inglesi continuano a portare nuovi coloni dall'Europa in cerca di fortuna. Dall'alto del promontorio, un ragazzino osserva le navi entrare nella Fitzroy Bay con il suo carico di speranza. Gli piace star lì, il panorama lascia senza fiato. A volte ci viene anche di notte per osservare il cielo. Conosce i nomi delle costellazioni a memoria e non si stanca mai di osservare lo spettacolo del cielo stellato che ogni sera la natura gli mette a disposizione. Lui sa già cosa fare nella sua vita. Vuole trovare il modo di raggiungere quelle stelle e toccarle per primo. Il suo nome è William Hayward Pickering. William Hayward Pickering. Certe volte anche il nome può segnare il destino di un uomo. William è infatti omonimo di William Henry Pickering, l'astronomo statunitense vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, al quale si deve la scoperta di Febe, il nono satellite di Saturno. A differenza dello scienziato americano, il neozelandese William Pickering lascia la sua terra per trasferirsi in California e continuare gli studi di ingegneria ai quali segue un master in fisica. La mia generazione ha attraversato momenti diversi. Due guerre mondiali, la prima bomba atomica, la guerra fredda e la conquista dello spazio. Beh, direi veramente un periodo interessante. William Pickering, subito dopo la laurea, concentra le sue ricerche sull'ingegneria elettronica, approfondendo gli studi che hanno dato origine alla moderna telemetria. La telemetria è una tecnologia informatica che permette la misurazione di informazioni da un soggetto trasmettitore a un operatore che si trova in un luogo diverso dalla fonte di misurazione. Oggigiorno si parla di telemetria quando si analizzano dai box i valori dei motori di Formula 1, ma questa scienza è considerata fondamentale per la moderna industria aerospaziale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista utilizza i primi razzi, i temibili V2, per bombardare l'Inghilterra, facendoli partire direttamente dal territorio tedesco. Werner von Braun, lo scienziato a capo del progetto, alla fine della guerra si consegna insieme ai suoi collaboratori all'esercito degli Stati Uniti. Questo gruppo di scienziati può facilmente continuare le proprie ricerche contando anche sui finanziamenti delle istituzioni militari che vogliono mantenere una posizione di forza nello scacchiere mondiale. Von Braun e gli altri vennero trasferiti ad Huntsville, in Alabama, sede dell'ABMA, l'Army Ballistic Missile Agency, dove venivano progettati i vettori aerospaziali. Gli Stati Uniti hanno appena sconfitto il Führer, ma si ritrovano a combattere una guerra silenziosa con il nemico di sempre, l'Unione Sovietica. Una guerra non dichiarata, fatta di confronti e schermaglie silenziose, di sfide continue sul filo dello scontro armato. La guerra fredda condizionò il nostro lavoro fin dall'inizio. Io ero entrato a far parte del gruppo di lavoro di Pasadena e poi mi trovai ad Huntsville con Von Braun. Uno dei confronti maggiori che Stati Uniti e Russia hanno nel periodo della Guerra Fredda riguarda la corsa alla conquista dello spazio. L'orgoglio di essere i primi a far volare un satellite in orbita, a mandare il primo uomo nello spazio, a raggiungere per primi la Luna, rappresenta una serie di sfide in cui le due grandi superpotenze possono fronteggiarsi a viso aperto. In un salotto di Washington, un brillante scienziato è al telefono con un suo stimato collega inglese, Sidney Chapman. I due parlano con entusiasmo delle ultime scoperte e i progressi ottenuti sui razzi e sulle nuove tecniche di propulsione. Lo scienziato di Washington, inoltre, racconta dei risultati ottenuti nella misurazione delle onde elettromagnetiche grazie al volo di alcuni palloni aerostatici di alta quota. Alla fine della telefonata i due decidono di proporre l'istituzione dell'anno geofisico internazionale, in modo che tutti gli scienziati del mondo possano condividere le loro scoperte e confrontarle con quelle dei loro colleghi. Lo scienziato di Washington non lo sa ancora, ma questa telefonata ha appena dato il via alla corsa alla conquista dello spazio. Il suo nome è James Van Allen. James Van Allen. Da piccolo mi sono sempre mostrato interessato nel cercare di capire il perché di certi fenomeni. Come facevano i pianeti a girare intorno al Sole mantenendo la loro orbita? Oggi sono felice di aver capito che tutto è dovuto a una concatenazione di calcoli matematici. Gli studi di James Van Allen si concentrano principalmente sulla fisica elettromagnetica e sulle implicazioni magnetiche legate alla missilistica, rendendolo in breve tempo una delle menti più brillanti del mondo scientifico americano. Lo scoppio della guerra ci portò a mettere a disposizione del governo le nostre capacità e le nostre conoscenze. Mi trovai a lavorare sui microtrasmettitori che consentivano ai proiettili di contraerea di detonare nel momento in cui rilevavano la presenza di un aereo nel loro raggio di copertura. Come accade a molti suoi colleghi, anche Van Allen si ritrova a migliorare e progettare strumenti di guerra e di distruzione, anche se, come lui stesso racconta, il tutto è giustificato da un forte senso patriottico. Dovevamo farlo, ma ognuno di noi non lo faceva semplicemente perché è costretto ad obbedire agli ordini superiori. Noi credevamo in un mondo migliore e sapevamo che ogni risultato raggiunto sarebbe servito per il miglioramento e la sopravvivenza dell'umanità intera. Le scoperte di Van Allen nel settore elettromagnetico sono considerate la base per la produzione di uno dei più comuni dispositivi elettronici oggi esistenti, il transistor. La valvola termoionica da me inventata è stata l'antesignana del moderno transistor e durante la Seconda Guerra Mondiale ne furono installati circa 8 milioni su altrettanti proiettili americani. Sono certo che il loro utilizzo salvò tante vite umane. Alla fine della guerra, Van Allen approfondisce gli studi di elettromagnetismo lavorando a stretto contatto con gli scienziati che hanno raccolto il testimone dal tedesco Von Braun e stanno lavorando allo sviluppo di vettori missilistici in grado di uscire dall'atmosfera terrestre. Quando nel salotto di casa sua James Van Allen lancia l'idea dell'anno geofisico internazionale, non sa che il governo americano vuole sfruttare questo avvenimento per sfidare l'Unione Sovietica su un terreno di confronto. Quello dello spazio. I tedeschi avevano dimostrato che era possibile costruire vettori in grado di volare per molti chilometri nell'atmosfera terrestre, ma la comunità scientifica era consapevole che gli stessi vettori avrebbero potuto anche raggiungere lo spazio. Lavorando sull'evoluzione del tedesco V2, Van Allen si occupa di attrezzare i missili con strumenti di misurazione che ritiene possano funzionare meglio al di fuori dell'atmosfera terrestre. Semplicemente abbiamo intuito l'enorme potenziale scientifico di allontanarci dalla Terra e procedere a determinate misurazioni al di fuori dell'atmosfera, in luoghi dove nessuno era mai stato prima. Come accade a William Pickering, anche James Van Allen inizia a lavorare a Huntsville, in Alabama, dove è stata costruita la base che ospita il gruppo di ingegneri tedeschi fuggiti dalla Germania nazista sotto la guida di Werner von Braun. Incontrai il dottor Pickering a Huntsville. Aveva l'aspetto di una base, ma per von Braun e gli altri era una specie di campo di prigionia, almeno all'inizio. Qui cominciamo a lavorare insieme sullo sviluppo di nuovi vettori e sulle apparecchiature da inserire nel cono del missile. Pickering e Van Allen si accorgono subito di avere molte cose in comune. Entrambi condividono una cieca fiducia nella scienza come strumento capace di unire gli uomini, non dividerli. La guerra fredda è iniziata e Russia e Stati Uniti si fronteggiano apertamente su vari campi. Uno di questi è la ricerca scientifica. Ottenere risultati eclatanti ha lo stesso significato di una vittoria su un campo di battaglia. William Pickering è diventato direttore del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena e lavora assiduamente alla costruzione di un vettore in grado di uscire dall'atmosfera e posizionarsi in orbita. Lavoravamo al progetto dell'esercito ed eravamo a buon punto. Von Braun ci aveva aiutato molto ed eravamo pronti a volare nello spazio. Ma proprio quando avremmo potuto arrivare prima dei russi, ci fermarono. La guerra fredda si combatte in silenzio, nell'ombra e talvolta porta a decisioni incomprensibili. Il Senato degli Stati Uniti deve decidere tra due proposte per il lancio di un satellite artificiale. Il primo fa capo a von Braun e al gruppo di lavoro di Huntsville. Il secondo è proposto dal Naval Research Laboratory, che è chiamato Progetto Vanguard. Dal momento che il secondo gruppo è legato alla Marina degli Stati Uniti e quindi di stampo esclusivamente militare, viene preferito al gruppo di cui fa parte anche William Pickering. Non fu una buona idea, ma le scusanti del presidente Eisenhower erano comprensibili. Non si voleva lasciare nelle mani di un ente non militare un progetto che avrebbe portato alla produzione di missili balistici, di strumenti di guerra. La scelta politica di preferire il progetto della Marina si rivela un errore da parte della classe politica americana e il gruppo di lavoro di Huntsville viene fermato prima che possa lanciare il suo razzo, come racconta lo stesso James Van Allen. La Marina stava portando avanti il progetto Vanguard, ma avevano problemi sull'affidabilità del vettore. Noi invece avevamo già realizzato un paio di lanci con il razzo Jupiter, ma avevamo dovuto zavorrare il missile per evitare che uscisse dall'atmosfera. Doveva essere la Marina a conquistare lo spazio. L'obiettivo principale per gli Stati Uniti è quello di avere uno strumento capace di spiare l'Unione Sovietica dall'alto. Inoltre, una parte della classe politica americana non vuole che il merito delle conquiste americane sia condiviso con il gruppo di scienziati tedeschi che allora molti considerano ancora dei nemici. L'anno geofisico internazionale era alle porte e sapevamo che anche i russi stavano lavorando su un lancio di un satellite per quell'anno. Chi si fosse appena messo in ascolto di questa edizione speciale, Washington ha confermato che ieri, 4 ottobre 1957, l'Unione Sovietica ha lanciato con successo nell'orbita terrestre il primo satellite costruito dall'uomo nella storia. L'anno geofisico internazionale inizia nel luglio del 1957 e appena tre mesi dopo lo Sputnik, il satellite artificiale messo in orbita dall'Unione Sovietica, attraversa i cieli degli Stati Uniti. L'avvenimento viene visto come una grave minaccia alla sicurezza americana e alimenta lo stato di incertezza in una pace duratura fra le due superpotenze. A Huntsville, Pickering e Van Allen ricevono tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione dell'esperimento, ma appare chiaro sin dall'inizio che gli Stati Uniti hanno perso il primato della conquista dello spazio. Eravamo letteralmente affranti dal fatto di non essere riusciti a mandare un razzo nello spazio per primi. Inoltre sapevamo che avremmo potuto farlo, ma qualcuno ce l'aveva impedito. Io e il dottor Van Allen ci ritrovammo nella sala riunioni principale ad ascoltare le notizie che arrivavano da Washington. Sapevamo di aver perso, ma da scienziati eravamo elettrizzati dalle notizie che ci arrivavano. L'uomo aveva raggiunto una grande conquista. Era un momento storico, anche se noi non ne eravamo parte. Il presidente Eisenhower e il suo staff prendono atto di aver gestito male tutto il progetto missilistico portato avanti dalla Marina e decidono di convocare von Braun a Washington, come ricorda Ernst Stühlinger, capo divisione della sezione missilistica. Von Braun fece una relazione al Ministero della Difesa e disse che lo Jupiter avrebbe potuto portare in orbita un satellite già un anno prima dei russi. Fu allora che venne data fiducia a Pickering e a Van Allen. I due scienziati sono riconosciuti da tutta la comunità scientifica come gli unici in grado di realizzare un progetto di lancio di un satellite in grado almeno di affiancare la conquista dell'Unione Sovietica. Ma il tempo stringe. È necessario che il satellite americano vada in orbita prima della fine dell'anno geofisico internazionale, in modo che la notizia abbia maggior risalto mondiale. Von Braun era molto arrabbiato. Fu allora che si rivolse al segretario di Stato americano e disse: «Signor segretario, ci dia il via e potremo essere in orbita in 60 giorni». Destini incrociati. Destini incrociati oggi ripercorre la storia di due brillanti scienziati che sono pronti a conquistare lo spazio, James Van Allen e William Hayward Pickering. I due scienziati raccolgono il guanto di sfida lanciato dai russi e si buttano a testa bassa sulla realizzazione del razzo capace di portare in orbita un satellite americano. Sono giorni di lavoro frenetico e di notti insonni, e non è raro che i due rimangano a lavorare da soli nella sala riunioni del centro ricerche, controllando e ripetendo le procedure di lancio. L'hangar dove il razzo Jupiter era custodito venne riaperto e il razzo fu portato all'esterno per essere ricontrollato. Il Senato ci diede 84 giorni di tempo per farlo partire. E questa volta non c'erano possibilità di errore. È passato meno di un mese dal giorno in cui l'Unione Sovietica ha conquistato lo spazio mandando per la prima volta in orbita un satellite artificiale, lo Sputnik. Un nuovo satellite, lo Sputnik 2, solca i cieli della Siberia portando al suo interno Laika, una cagnetta che diventa il primo essere vivente che abbia abbandonato l'atmosfera terrestre. Un nuovo colpo propagandistico contro gli Stati Uniti. Nel frattempo, il test di decollo del Vanguard, il razzo preparato dalla Marina, fallisce miseramente con la sua esplosione sulla rampa di lancio, davanti a milioni di americani attoniti. Quando arrivò la notizia che i russi avevano mandato un cane nello spazio, il clima nella base divenne pesantissimo. La delusione aveva fatto crollare il morale dell'intera squadra, ma fu allora che Pickering e Van Allen presero in mano la situazione. Dopo aver riunito tutto lo staff nella sala riunioni, William Pickering inizia a parlare al gruppo di scienziati, spronandoli a lavorare ancora più duramente per concludere il compito che il Senato gli ha affidato. Van Allen è al suo fianco e spiega che ormai la cosa importante non è andare nello spazio, ma raccogliere dati scientifici in grado di offuscare l'impresa russa. Pickering distribuisce a tutti i suoi collaboratori i compiti da svolgere. Van Allen deve occuparsi di tutta l'apparecchiatura da inserire nel cono del missile, strumenti di misurazione capaci di rilevare dati importantissimi sui livelli di radiazioni al di fuori dell'atmosfera, come lui stesso racconta. Dovevamo misurare l'intensità dei raggi cosmici e i livelli di radiazioni presenti nello spazio, e questo ci avrebbe permesso di regolare gli strumenti di trasmissione dei dati e proteggere in futuro gli astronauti presenti nelle capsule. I russi non l'avevano fatto e questo poteva essere un vantaggio per la nostra missione. Dal momento che il primato della conquista è ormai perso, l'attenzione degli scienziati americani si focalizza sul valore scientifico della missione. Ottenere delle importanti informazioni capaci di rendere più sicuro l'invio di un astronauta nello spazio vuol dire controbattere con serie argomentazioni alla propaganda sovietica che si pavoneggia per i risultati raggiunti. A volte il primo obiettivo raggiunto può non essere il più interessante dal punto di vista scientifico. A questo punto bisognava lavorare sui risultati. Il lavoro frenetico di quegli 84 giorni porta sulla rampa di lancio l'Explorer 1, il primo satellite montato su un vettore Jupiter. La sera del 31 gennaio 1958 rappresenta una data fondamentale per la storia aerospaziale americana. William Pickering osserva l'orologio del conto alla rovescia avvicinarsi allo zero e poco prima del lancio incrocia lo sguardo di Van Allen, che appare tranquillo e gli sorride. Lui è fermamente convinto del successo della missione. Il cielo di Cape Canaveral si illuminò quando la scia di fuoco dell'Explorer si staccò da terra. Il lancio fu perfetto. I nostri tecnici avevano calcolato tutto alla perfezione e il satellite si posizionò su un'orbita stazionaria. Le parole di William Pickering tradiscono un'emozione difficile da contenere. Ma c'è ancora tempo per festeggiare. Bisogna infatti attendere che il satellite cominci a inviare i dati che gli strumenti installati da Van Allen raccolgono nel silenzio dello spazio. A Cape Canaveral i minuti passano uno dopo l'altro, mentre si attende dall'Explorer 1, il satellite americano lanciato in orbita, il primo segnale radio. James Van Allen, che ha installato sul satellite tutte le apparecchiature di trasmissione, ricorda così quei momenti. Furono momenti molto intensi, fatti di silenzi, di sguardi che si incrociano, di litri di caffè bevuti in attesa di captare il primo segnale. Ci volevano 90 minuti perché il segnale arrivasse sulla Terra. Ma dopo 91 minuti, niente. E ancora niente. Silenzio assoluto. Sicuramente furono momenti difficili. C'erano almeno una trentina di persone che mi guardavano, tra cui Von Braun e Van Allen. E tutti immaginavano che io fossi l'unico a sapere cosa stava succedendo. Gli Stati Uniti non si possono permettere un altro insuccesso. Le ripercussioni politiche che un fallimento della missione può avere sono un peso che gli americani non possono sopportare. Tutte le stazioni militari sparpagliate sul territorio americano ascoltano lo spazio profondo in attesa di un segnale. James Van Allen rivive in quei minuti tutte le notti insonni passate con Pickering a distribuire i compiti, ripetere calcoli, motivare i colleghi. Sono minuti che sembrano una vita. Passarono 108, forse 109 minuti di silenzio assoluto e finalmente il telefono di Pickering squillò. Il centro di rilevamento terremoti di Los Angeles aveva raccolto il segnale. A quel punto la sala esplose in un fragoroso applauso. Tutti si abbracciarono e si diedero pacche sulle spalle. È stato, credo, il momento più felice di tutta la mia vita. La foto di Van Allen, Pickering e Von Braun, che sollevano un modello dell'Explorer, raggianti di felicità, finisce sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Gli Stati Uniti eguagliano i loro nemici e lo fanno a tempo di record. 84 giorni di lavoro continuo e disperato e di paure consegnano Pickering e Van Allen alla storia. D'accordo con Pickering, tutti i dati dell'Explorer furono trasferiti su un astro ed inviati all'Università dell'Iowa, dove un mio gruppo di ricercatori avrebbe analizzato i risultati. Ma quando cominciammo a verificare le trasmissioni, notammo una cosa molto strana. Tra gli strumenti che Van Allen inserisce all'interno del satellite Explorer c'è anche un contatore Geiger, uno strumento necessario per la misurazione delle radiazioni. La macchina rilevava un'attività normale di radiazioni, poi però questi valori iniziavano a salire per poi interrompersi completamente. Dopo un certo periodo ritornavano molto alti per poi rientrare nella normalità. Era una cosa incomprensibile, per noi una nuova sfida da affrontare. James Van Allen si confronta con William Pickering sui risultati sorprendenti rilevati nello spazio. Ed è lo stesso Pickering a fornire tutto il supporto necessario per cercare di risolvere questo nuovo mistero proveniente dallo spazio. Thank you. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati viviamo la conquista dello spazio da parte dell'Explorer 1, il primo satellite americano lanciato con il contributo fondamentale di due scienziati, William Pickering e James Van Allen. Dal suo studio dell'Università dell'Iowa, Van Allen esamina i dati raccolti dai contatori Geiger posizionati all'interno del satellite che rilevano un'anomalia nelle misurazioni delle radiazioni. Durante un'orbita completa, infatti, si registrano dei graduali aumenti dei livelli di radiazioni fino alla scomparsa totale del segnale, come ci spiega James Van Allen. Il contatore saliva fino ai limiti per poi smettere di rilevare le radiazioni. Era come se lo strumento andasse in tilt. William Pickering riceve i rapporti di Van Allen nel suo studio di Huntsville e le telefonate tra i due sono interminabili. Si cerca di dare una spiegazione scientifica plausibile a un fenomeno senza precedenti. Poi, durante una di queste telefonate, l'intuizione di Van Allen. C'era una sola spiegazione possibile. Il livello di radiazioni era più elevato di quanto non fossimo mai stati in grado di misurarlo. Alla fine scrissi su un foglio la frase che risuonò in tutto il mondo come una sentenza. Lo spazio è radioattivo. La presenza di protoni ed elettroni è dovuta alla collisione del vento solare contro il campo magnetico terrestre. Le particelle radioattive rimangono ingabbiate all'esterno dell'atmosfera, ma per effetto della gravità non possono allontanarsi. Quando spiegai alla stampa la presenza di questa anomalia, un giornalista mi chiese se queste particelle formassero una specie di cintura, di fascia intorno alla Terra, e io risposi sì. Le possiamo definire delle fasce di radiazioni. E fu così che la stampa si appropriò di questo termine e lo consegnò alla storia. I giornali iniziano a parlare delle fasce di Van Allen e il nome viene adottato dalla comunità scientifica che in questo modo concede un tributo allo scienziato che le ha scoperte. La scoperta delle radiation belts risulta essere la più importante dell'anno geofisico internazionale, non solo per le implicazioni scientifiche, ma per l'enorme influenza data al volo spaziale. Le radiazioni rilevate costituivano un grande pericolo per la sicurezza degli astronauti e per il corretto funzionamento delle astronavi e delle apparecchiature interne. Tracciando una mappa precisa della loro presenza, si poteva impostare l'orbita dei satelliti in modo che non attraversassero le fasce di radiazione. Nelle tre missioni successive dell'Explorer, le fasce di Van Allen, come vengono ormai definite da tutti, vengono misurate con precisione. Si scopre che le fasce sono due. Una inferiore, che si trova a un'altitudine media dalla Terra compresa tra i 700 e i 10.000 km, e quella più esterna, che si estende dai 13.000 ai 65.000 km. Guarda, cos'è? L'aurora boreale. La luce del nord, ma non siamo troppo a sud per vederla da Cape Side? A quanto pare no. L'aurora boreale è un fenomeno atmosferico che si sviluppa in prossimità dei poli e delle alte latitudini. Non tutti sanno che l'origine di questo fenomeno risiede proprio negli elettroni intrappolati nelle fasce di Van Allen, che entrano a contatto con la parte più alta dell'atmosfera terrestre, dando origine ai suggestivi effetti di colore. James Van Allen ha continuato ad occuparsi di voli aerospaziali per molto tempo, collaborando con la NASA su tutti i progetti più importanti. Le sue parole ci lasciano una testimonianza delle sue scoperte scientifiche. Sono molto fiero di aver contribuito con le mie scoperte allo sviluppo dell'intera umanità. Le fasce di radiazioni erano lì ed io ho avuto la fortuna di scoprirle. Tutti i satelliti lanciati dalla NASA portano ancora oggi gli strumenti di rilevazione dati costruiti e perfezionati da Van Allen, che il suo centro di ricerche aggiorna con l'utilizzo delle nuove tecnologie. È stato scoperto che tutti i pianeti hanno le fasce di radiazione e tutti hanno preso l'abitudine di chiamarle come si chiamano qui sulla Terra, col mio nome. Questo mi onora, ma mi fa capire che l'uomo non deve smettere mai di studiare l'universo, perché ancora c'è tanto da imparare. Oggi lo studio delle fasce di Van Allen sta trovando un'applicazione anche nella prevenzione dei terremoti. È stato infatti rilevato che l'attività delle onde elettromagnetiche aumenta in presenza di un terremoto. Dal momento che lo stesso aumento si può rilevare anche nelle particelle di cui sono composte le fasce di Van Allen, il monitoraggio dei livelli potrebbe identificare in anticipo la zona dove sta per scatenarsi un terremoto, permettendo il salvataggio di molte vite umane. William Hayward Pickering è tornato nella sua terra d'origine, la Nuova Zelanda, dopo aver diretto il Jet Propulsion Laboratory per 22 anni e aver lavorato su tutti i più importanti progetti missilistici americani. In Nuova Zelanda trascorre gli ultimi anni della sua vita collaborando con l'ente spaziale neozelandese e partecipando a diverse conferenze in tutto il mondo. Di tutta la sua carriera, il ricordo più forte lo conserva per quegli incredibili 84 giorni in cui i due scienziati hanno unito le loro forze per raggiungere un obiettivo definito sulla carta impossibile. Quel ragazzino che sul promontorio osservava le navi arrivare in porto ha smesso di guardare le stelle, ma ha vissuto una vita intera a studiare il modo per raggiungerle, permettendo ad altri uomini di arrivare in luoghi dove nessuno è mai stato prima. Talvolta si ricordano soltanto gli eroi e i loro risultati, ma non si pensa che il raggiungimento di certi obiettivi è il frutto del lavoro di chi dedica tutta una vita a contribuire all'evoluzione dell'umanità.